La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L'articolo 32 riguarda un altro caposaldo della Costituzione, la tutela della salute. Ovviamente la tutela della salute viene riconosciuta non solo come diritto dell'individuo, ma anche come interesse della collettività, perché ovviamente siamo ancora in un'epoca in cui la salute pubblica, la salute collettiva, era un bene, un interesse da raggiungere per l'intera collettività. È interessante notare come il diritto dell'individuo alla salute sia definito per Costituzione fondamentale. È l'unico caso in cui la Costituzione utilizza questo aggettivo. Noi abbiamo già incontrato l'aggettivo inviolabile per qualificare la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di circolazione, ma l'unico diritto che la Costituzione riconosce come fondamentale è la salute. Quindi siamo proprio sull'architrave principale della vita della persona. La Costituzione è una Costituzione personalista e quindi cosa vuole per la persona? Vuole che la persona umana sia libera nella sua persona, sia libera nel suo domicilio, ma sia anche tutelata e garantita nella salute. Il primo comma si chiude con un inciso molto importante, perché la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti, per cui la gratuità del Servizio Sanitario Nazionale Generale, la Costituzione la vede soltanto per gli indigenti. Sappiamo bene che fino al 1978, infatti, in Italia vigeva un sistema a base mutualistica in cui le prestazioni erano in fondo da tutti pagate nell'ambito della propria mutua. Solo con la riforma del Servizio Sanitario Nazionale del 1978 invece si arriva a quel sistema tuttora in vigore di un Servizio Sanitario Nazionale generalizzato e tendenzialmente gratuito per tutti. Oggi, trascorsi quasi 40 anni da allora, ci si pone invece il problema della sostenibilità finanziaria di questo servizio, perché il Servizio Sanitario Nazionale gratuito, che è sicuramente un servizio di grande generosità, di grande attenzione alla persona umana, è molto costoso per lo Stato. Si parla, stando alle ultime cifre, di circa 150 miliardi di spesa sanitaria pubblica generale rispetto a 30 miliardi di sanità assicurata, di sanità privata. Ecco allora che sarà uno dei grandi temi dei prossimi anni capire come affrontare il problema del riconoscimento delle cure, ricordando l'indirizzo costituzionale: le cure gratuite sono soltanto per gli indigenti. Importante anche il secondo comma, perché il secondo comma esclude i trattamenti sanitari obbligatori e quindi il secondo comma crea il diritto non solo ad essere curati, ma anche il diritto a non essere curati, quindi il diritto a rifiutare le cure. Qui poi è uno degli appigli che si pone per tutti coloro che sostengono e ricercano in Costituzione anche una base per il diritto a una morte dignitosa e per arrivare alle ipotesi di testamento biologico ed eutanasia. Anche qui il Costituente aveva guardato lontano. Tuttavia si prevede anche che si può essere obbligati a trattamenti obbligatori sanitari per disposizione di legge. E qui si pone tutto il problema anche attuale delle vaccinazioni, cioè il Costituente si rende conto che la legge può prevedere che ci siano dei trattamenti sanitari obbligatori per tutti, perché la salute non è solo diritto individuale, ma è anche diritto della collettività. Ecco allora che la vaccinazione obbligatoria, quale esempio, è del tutto compatibile con la Costituzione, anche se i danni del trattamento sanitario obbligatorio saranno riconosciuti e risarciti per legge. Sappiamo che c'è tutta una giurisprudenza e una successiva legislazione che riconoscono in maniera molto significativa i danni conseguenti ai trattamenti sanitari obbligatori.